Allora, tra le mille accezioni della parola dialogo, però sono proprio, cioè, liscindo i due discorsi perché uno è assai denso, l'altro è assai gommoso. Gli abitanti, c'è il primo problema che è di definirli, perché chi è che abita un luogo? Chi ha una casa in proprietà, chi ci vive in affitto, chi ci vive tutto l'anno, chi ci torna 2 mesi l'anno e se non ci torna muore. Ecco, sulla definizione di abitanti, metodologicamente noi ce ne siamo data una aperta, perché ci sembrava un po' anacronistico nel XXI secolo rinchiudersi in pizza una montagna in 45. Non ci sembrava avere tanto senso. Per qualcuno magari può anche averlo, però per noi non ce l'aveva. E quindi siamo partiti da un'idea di comunità, tra virgolette, aperta. Quindi abita quel luogo, quindi riconoscendo una pari dignità a chiunque sente di avere una relazione di abitare con l'abitato storico. Quindi non solo chi ci vive ancora oggi tutto l'anno, ma anche chi ci torna settimanalmente o su periodi, su frequenze più lunghe. Con tutte queste persone, nei limiti resi possibili dalla situazione di terremoto, il progetto ha instaurato un dialogo, con esiti diversificati, perché una comunità appunto è un campo di relazioni e non è un'iconcina. Come dire, così, bella, coesa, omogenea, neutra e senza conflitti. Quella è una visione un po' ideologica, della comunità. Con reazioni diversificate che vanno da un'adesione piena, per cui magari il vecchino di 82 anni sta con noi in cantiere, anche se la sua casa è strutturalmente una A e quindi lui rimane a casa sua a vivere perché può rimanerci, però poi il giorno viene a dare una mano, in cantiere. Diciamo, alla curiosità di diffidenza di chi quotidianamente fa la sua camminata fino al cantiere, rimane un po' a guardare e poi torna indietro, all'opposizione netta di chi dice che invece l'identità del paese va salvaguardata, per cui devono poter decidere solo quelli che sono proprietari e residenti lì da almeno 3 generazioni. In 45 persone siamo riusciti a fare proprio tutta la gamma delle posizioni possibili. Il dialogo con le istituzioni è quello che hai detto tu, è stato quello che hai detto tu, con una premessa. Io sarei, per quello che conta, l'iscrizione a un partito politico di rifondazione comunista. Il sindaco di centro-sinistra sarebbe un sindaco che abbiamo messo su anche noi, una persona che conosco dalla campagna elettorale, quindi da 3 anni a questa parte. Col quale normalmente si riesce a bere una birra al bar, e nonostante questa, come dire, vicinanza simpatetica, poi in termini di possibilità di dialogo con le istituzioni è stato un sordo assoluto. Questo è il comune dove, diciamo, era la cosa più facile, la relazione più facile perché c'è una relazione politica, umana, di campagna elettorale, eccetera, eccetera, eccetera. Però rispetto a lì, quando siamo andati lì a dirgli guarda che noi ci vogliamo fare da soli le case, la risposta è stata ma voi siete matti? No? Ve le portiamo con la protezione civile. Questo è stato il massimo di dialogo possibile con l'istituzione. Come? Farvi le case a spese vostre come le volete voi? Vi diamo quelle bellissime della protezione civile a due piani, prefabbricato a due piani. Questo è il massimo di dialogo. Oh, le abbiamo provate tutte, adesso la dico così perché sono a dicembre, l'ultima cosa di cui mi preoccupo in questo momento è il dialogo con le istituzioni, tanto non c'erano. Siamo andati avanti comunque, ma noi all'inizio avevamo ragionato su questo, otteniamo i terreni incomodati dai compaesani, la protezione civile troverà un qualche cavolo di prefabbricato recuperato dai precedenti terremoti. Ce lo viene a sistemare e noi per maggio siamo tranquillamente dentro le nostre case, che rimarranno le nostre case per i prossimi 5, 10 o 15 anni. però mettiamo termine a questa situazione allucinante di svegliarti e uscire di casa al mattino perché sennò ti cade addosso e da quel momento non averla più. Questa cosa non è stata possibile. Se questo sia dovuto a come dire, un'impostazione organizzativa del sistema di protezione civile, per cui è un sistema gerarchico a caduta che non prende feedback dal basso, oppure se questo sia il risultato di una scelta per cui, visto che andava realizzata la città nuova con i lustrini e le super tecnologie, allora non poteva esserci nessuna soluzione abitativa prima che la prima persona entrasse dentro la nuova città, perché infatti i MAP nelle frazioni sono stati annunciati il 15 settembre in contemporanea, in sostanza, con l'inaugurazione del primo appartamento del progetto casa. E questo io non ti so dire, probabilmente un po' una cosa e un po' un'altra, però il dialogo con le istituzioni non è proprio stato possibile farlo, ma non è stata una difficoltà nostra dell'ultima frazione del Comune dell'Aquila, non ci sono riuscite neanche decine di comitati cittadini che su una cosa o su un'altra hanno cercato di aprire un dialogo, perché le scelte che cadevano dall'alto non erano propriamente le più adeguate e venivano percepite subito come non adeguate. Quindi c'è stata una fitta rete di comitati cittadini che si sono auto-organizzati nei campi, negli alberghi sulla costa, e hanno cercato un dialogo con le istituzioni, diciamo, comune, provincia, regione, protezione civile, ma tranne qualche ipotesi di cooptazione spicciola non c'è stato nulla in termini di che ti facesse pensare a un dialogo, perché un dialogo è tale se tu dici qualcosa e l'altro ti fa capire che forse ha sentito quello che gli stai dicendo, perché se no, se continui a ripeterti il messaggio di prima, dici questo non è un dialogo, continua a essere una simpatica comunicazione bilaterale, ma io dico il mio, tu dici il tuo e basta. Con le istituzioni è stato così, tranne un pochettino con la provincia, ma perché lì il presidente della provincia ha fatto un suo gioco di partita politica sul terremoto, per cui pure questa è centrosinistra, mentre il sindaco del comune chinava il capo fino a quelle scene pietose a porta all'inaugurazione del villaggio di Onna realizzato dalla protezione civile del Trentino con i soldi della Croce Rossa, quindi una cosa che non c'entrava niente con il governo, dove lui credo questa cosa non l'abbia fatta neanche notare, eppure se il sindaco del principale comune terremotato, il presidente della provincia, sempre centrosinistra, ha fatto un'altra partita, ha deciso di fare la paladina dei terremotati e quindi ha ribattuto punto per punto a quello che diceva Bertolaso nell'arco di questi 6 mesi, diciamo, si è ricostruita la candidatura per il rinnovo della carica, perché si vota ad aprile, e lì il nostro progetto è stato utile dal punto di vista comunicativo, nel senso, vedi, guarda che le persone qui vogliono rimanere a vivere nei posti dove vivevano prima, non vogliono accettare una soluzione abitativa imposta dall'alto, vedi questi qui, poveri cristi a Pesco Maggiore. Quindi, diciamo, nella comunicazione mediatica ha giocato un pochettino anche questo, tant'è che siamo stati spinti mediaticamente su Rai 1, che è una cosa che, cioè, sinceramente proprio non mi aspettavo che succedesse, si sono ritrovati così, diciamo, perché sono poi partite che si giocavano nello scontro fra protezione civile ed enti locali, però in maniera abbastanza sotto traccia, per dirti, ma sto divagando, per il livello del dialogo con il sindaco. Il sindaco è arrivato al punto che ancora il 20 di ottobre diceva ai terremotati asserragliati nelle tendopoli che erano state ordinate le case mobili, cioè le roulotte, da dargli in attesa che fossero pronte le case del governo o un'altra soluzione abitativa. Poi alla fine le tendopoli sono state chiuse senza che queste roulotte arrivassero mai, perché non erano state mai ordinate, ma non detto così in un dibattito, no, scritto sui giornali per 4-5 volte di seguito con tanto di comunicato stampa della segreteria del sindaco. Quindi il dialogo proprio non ce n'è stato. L'impressione dal basso, ma è stata che tutta la vicenda del terremoto è stato un immenso scenario mediatico per tante persone, dal Presidente del Consiglio al Sindaco, al Presidente della Provincia, alla presunta opposizione che siede in Parlamento, oppure anche al movimento New Global nel momento in cui si è deciso di fare comunque una manifestazione all'Aquila quando gli aquilani avevano chiesto di non farla. Pensandola a 6 mesi di distanza c'erano ragione i compagni dei New Global, ma lì per lì magari un attimo di sensibilità in più sarebbe stata gradita. Però di dialogo ce n'è stato veramente assai poco e forse anche poco comunicabile. La posizione del terremotato con l'istituzionale. Probabilmente fra terremotati si riesce forse a comunicare, ma con l'istituzione no. Cioè, ha risposto perlomeno a una logica completamente diversa. Non so se era possibile altrimenti. Non so se ti ho risposto.